Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ, DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cosa che si può dire, caro Parenzo, è che Berlusconi ha fatto fare una figura di palta, se non addirittura una figura di merda, direttamente, diciamolo subito, no? Diciamolo direttamente a quelli che sono intervenuti prima di lui, una figura di cacca. Scusa, vogliamo sentire l'onorevole Brunetta, capogruppo, capogruppo, aspetta, fammi parlare, non mi interrompere, fammi parlare. Capogruppo del PDL, a un certo punto esce da una riunione nel corso di questa mattinata convulsa che ha portato alla fiducia al governo Letta e dice: il presidente Berlusconi ha messo in votazione fiducia o sfiducia e il risultato è stato unanimità per la sfiducia, c'è stata anche la controprova, nessun voto per la fiducia, ne è risultato la decisione del gruppo parlamentare del Senato per l'atteggiamento, la decisione della sfiducia. Questo Brunetta, Sandro Bondi che poi addirittura si è astenuto, Bondi. Ma per voi, al di là delle sue belle parole, onorevole Letta, la pacificazione significa in realtà estromettere, eliminare dalla vita politica e da questo Parlamento il leader dei moderati italiani, quel leader che l'ha indicata a presiedere questo governo, onorevole Letta, e che lei ha dimenticato perfino di citare. Pare che Verdini si sia addirittura messo a piangere nei minuti finali, sì, nei minuti convulsi, così risulta dalle cronache, così risulta dalle indiscrezioni, ma noi ci crediamo. Il mitico Verdini, l'uomo, il grande stratega, si è messo addirittura a piangere quando Berlusconi ha preso la decisione, rischiamo di rimanere isolati, e poi ha pronunciato queste parole. E quindi, mettendo insieme tutte queste aspettative, il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre quelle riforme strutturali e istituzionali di cui il Paese ha bisogno per modernizzarsi, abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. È lo stesso governo, per darvi l'idea della farsa, per darvi l'idea della farsa assoluta, diciamolo subito, della farsa totale. È una farsa inaudita. L'unica nota politica importante di oggi, l'unica riflessione, diciamo così, che si può fare, cari ascoltatori, cari camionisti, cari tassisti e cari ascoltatori della zanzara, è questa: che il governo può sopravvivere anche a Berlusconi. Cioè Berlusconi non è più uno degli azionisti di questo governo. Però, al di là di questo, la cosa vera è che è stata sconfitta la coppia Sallusti-Santanchè. Oh, a proposito di Sallusti, ma vogliamo risentire quello che è accaduto ieri sera? Perché anche l'altro che ha fatto una figura di cazzo, cioè, o di merda, eccetera, o di palta, in senso più soft, potremmo utilizzare una parola più leggera, è Sallusti, il quale fa, come dire, il berlusconiano di ferro con Cicchitto. Dopodiché oggi Berlusconi cambia idea improvvisamente, sentiamo. Io credo che tutta questa operazione è data almeno un anno fa e da vigliacchi quali sono hanno aspettato il momento di massima debolezza. Vigliacco del presidente. Ci sarai te. Beh, è una mossa vigliacca. Perché non è che vieni qua a insultare la gente. Si può avere un parere diverso senza mettersi a insultare la gente. Chi? Sei abituato male. proprio da veri democristiani, nel momento di debolezza io ti pugnalo alle spalle. Questo perché non hanno il coraggio, non hanno avuto il coraggio di pugnalarlo quando non era in questo momento di debolezza. Questa è una, coincidenza. Non c'è niente di peggio, non c'è niente di peggio dello stalinismo applicato alla politica. È una simpatica coincidenza. I più grandi autogol che il centrodestra ha subito li ha subiti non per Libero ma grazie al giornale. Quindi ce n'è un elenco che non finisce mai, quindi lo leggo. Quali? Con un po' di divertimento perché è un giornale. Quali? Umoristico. Quali? Quindi con una notevole forza di impatto da, questo, punto, da questo punto di vista. E Cicchitto si prepara a fare un gruppo autonomo alla Camera, cose dei pazzi, caro Parenzo, cose dei pazzi. No, a un certo punto interviene anche Scilipoti, perché il Presidente del Consiglio Letta, durante la discussione al Senato, dice devo rendere omaggio ai parlamentari ex dei 5 Stelle, da PIN, eccetera, eccetera, che hanno deciso di votare a favore della... che sono grillini, transfughi, grillini, eletti contro Letta e contro i partiti, i quali hanno votato la fiducia, come Scilipoti, sono come Scilipoti, e giustamente Scilipoti dice perché voi no, li esaltate, perché il Presidente del Consiglio li esalta, io vengo considerato un traditore, succede un parapiglia. La discussione alla quale abbiamo assistito, senatore Scilipoti, la discussione alla quale abbiamo assistito oggi, a sedere. La discussione alla quale abbiamo assistito oggi è stata una discussione importante, è stata una discussione... Senatore Scilipoti, senatore, non ha la parola, senatore Scilipoti. Beh, un mito, una leggenda, perché poco prima Scilipoti si era avvicinato a Berlusconi dicendo bisogna bastonare i traditori, proprio lui. Siamo qui con Emilio Fede, buonasera. Non c'entra niente con il traditore, non ho mai tradito nessuno, buonasera. Dove sei, Emilio, col viva voce? Sono col viva voce. Ecco, togli di sto cazzo di viva voce, toglielo. Su, dai. Aspetta che lo tolgo, aspetta. Vai. Adesso? Oh, perfetto, come al solito, perfetto. Sono in piazza Sant'Andrea della Valle a Roma, dove c'è la redazione della discussione della quale io sono immeritatamente direttore della discussione, benissimo. Senti, allora come io... apre domani la discussione? No, aspetta, stai zitto un attimo. Dice? No. Perché ce l'ha con la discussione? No, caccialo, dice, sì, lo caccio, prima o poi lo caccio. Caccialo. Scusami, direttore, io voglio chiederti una cosa. Di fronte, come dire, ai tuoi occhi, questi personaggi che oggi in un modo o nell'altro tradiscono Berlusconi, per esempio Alfano, no? Alfano. Tu, quando l'hai conosciuto Alfano, cosa faceva per Berlusconi? Dimmi la verità, allora, cosa ha fatto? Ho conosciuto Alfano, sì. L'ho conosciuto perché Berlusconi mi ha chiamato e mi ha detto: Emilio, ero direttore del TG4, sì. Emilio, c'è un giovane della politica, sì, che ha bisogno di essere un po' più conosciuto, dunque per, sì, favore tu chiamalo in televisione. Io, sì, mi collegavo spessissimo con lui, sì, per dargli visibilità, sì, così come veniva a trovarmi anche a trovarmi altre persone, ad esempio la Gelmini è arrivata a Desenzano perché io in un certo senso le insegnavo un po' il modo di comunicare. Così, sì, ho conosciuto Alfano. Dunque il fatto c'aveva che... gli occhiali all'epoca. All'epoca c'aveva gli occhiali. Però scusami un attimo, Alfano oggi che tradisce Berlusconi, che effetto ti fa? Dimmi la verità, che effetto ti fa? Una cosa... Ma io non lo so, guarda, se lì si può parlare di tradimento. Guarda, io... come no? Io dico no, guarda, io sono sistematicamente contro i ruffiani, gli infingardi, eccetera. Appunto. Il tradimento è un'altra cosa. La banda di ruffiani ce l'abbiamo un po' dappertutto, anche tu sei un ruffianetto, dai, sono inutile negarlo. Ma che vuol dire sono un ruffianetto? Devo dire la verità, che ho tanti limiti a questa non cosa. È vero, no, ruffiano non sei, tutt'altro, sei un pipale, ma se non sei ruffiano. Però scusami un attimo, Alfano, ai tuoi occhi, tu che sei rimasto sempre vicino a Berlusconi, Alfano, uno che deve tutto a Berlusconi e che gli volta le spalle, che è pronto a votargli la sfiducia, poi Berlusconi ci ha ripensato all'ultimo momento, ai tuoi occhi, che cos'è Alfano? Alfano è un, come si dice, un kamikaze. Ma è comunque, kamikaze. Kamikaze può essere anche positivo, però, scusami. Sì, un kamikaze, cioè uno che fa questa operazione, se è un di un'operazione si tratta, poi devo essere sincero che io con Alfano non mi sento, credo da un anno, da un anno e mezzo, cioè, quindi io non lo so esattamente, io so, come voi avete visto dall'altra parte, il momento labiale di quando Berlusconi improvvisamente, cioè, quasi a sorpresa, ma non per lui a sorpresa, che c'è Letta che dice è un grande, riferendosi a Berlusconi, lo dice ad Alfano, il quale non batte ciglio. C'ha le ciglia Alfano, c'ha le ciglia. Vabbè, non batte ciglio. Ma Cicchito, dice. Cicchito che te lascia Berlusconi? Ma guarda, Cicchito io non lo so, guarda, io devo dire la verità, Cicchito ho sentito ieri a Ballarò tutto sto casotto che hanno fatto. Sì, ma non ce l'hai un po', scusa, non ce l'hai un po' con questi qua che tradiscono Berlusconi, che lo abbandonano proprio nel momento di maggiore debolezza, nel momento di maggiore... guarda, io rimprovero a Berlusconi, l'ho scritto anche in un editoriale. Sì, un editoriale, certo. La discussione, cioè, anche io un editorialista. Sì, allora? Soltanto Sallusti, mica soltanto per Pietro. Io dico soltanto che un tempo accanto a Berlusconi c'era... C'era zio Fedele Confalonieri, c'erano Marina e Pier Silvio, gli altri figli erano ancora troppo piccoli, c'era Gianni Letta, c'era Confalonieri e, scusate l'immodestia, c'ero anch'io. Invece? Adesso accanto a Berlusconi ci sono personaggi diversi, certamente migliori, ci mancherebbe altro, però... Vabbè, non ti ha fatto, non ti ha colpito sto tradimento, diciamo la verità. No, ma non è che non lo vedo come un tradimento, non lo vedo. Parenzo, dove sei? Sono strabico. No, ma voglio dire, non capisco questa soluzione che Emilio, che il direttore dà di tutta la vicenda, di questi crescere. Non do nessuna soluzione, al contrario. No, io sono perfettamente d'accordo che ci siano persone che nei confronti di Berlusconi, diciamo così, si sono comportato, si comportano e si comporteranno. La parola traditori non mi piace proprio perché è cacofonica, ma ingrati. Meglio ancora, anche direi forse e come sono allora? Ruffiani. Sono amici a tempo determinato. Amici a tempo, dunque Alfano è un amico a tempo determinato, un ruffiano. D'altra parte, io dico che sia ruffiano. Io è un amico a tempo determinato. Voi siete amici a tempo indeterminato. Ma perché non la smettete di urlare? Sembrate presi, vi state montando la testa, datevi una calmata. Onorevole Buonanno, qual è la sua pasta preferita? Pasta Barilla, da qualche giorno a questa parte mangio solo pasta. Io poi arrivo dalla provincia di Vercelli, dovrei mangiare il riso, ma adesso mangio solo pasta. Pasta Barilla, perché secondo me Barilla... E così Buonanno ha ucciso definitivamente l'azienda Barilla. L'onorevole Buonanno, che della Lega, è diventato sponsor della pasta Barilla, mitico Buonanno. Va bene, 800 24 00 24, siamo con Emilio Fede, che sa tutto di Berlusconi, sta per pubblicare un libro sui ruffiani di Arcore. Chi c'è tra i ruffiani di Arcore, Fede? Ma guarda, i ruffiani di Arcore vanno e vengono, alcuni vanno e, come diceva quello Angelo Musco, i soldi vanno e vengono, dice, sì, ma questi vanno e non vengono più. Allora ci sono stati ruffiani naturalmente nella vita. Poi ma faccio un nome di uno che... Emilio Fede, però bisogna essere intelligenti, io sono un ruffiano intelligente, ci sono i ruffiani non intelligenti. Per esempio? Per esempio quelli che... Alfano? Ma guarda, io vi posso solo dire questo, che... Alfano non ha mai risposto neanche a una mia telefonata. Tu come la vedi? In che senso? No, l'ho chiamato qualche volta, l'ho cercato qualche volta, gli ho mandato il messaggio qualche volta, ma sai che ti dico, ma io dove sono? Alla mia età, ma che? Che? Ma quando è che non rispondeva alle tue telefonate? Scusa. Che ne so, si vede che non mi considera. Non è il solo che non mi considera. No, ormai solo noi ti consideriamo. Io ho un blog con 35.000. Ormai solo noi ti consideriamo. Dai, ma Berlusconi adesso. Ma Berlusconi che deve fare adesso? Scusa, spiegami un attimo. È all'angolo lì. Ormai non No. Guarda, Berlusconi non è all'angolo. Ma è pronto per la galera, secondo te? Guarda, la parola Galera io non la vorrei sentire mai per nessuno. Vabbè, d'accordo, ma... No, no, questo non voglio fare la difesa di Berlusconi. Tieni coso presente anche, no, non ho più il TG4, tieni presente anche, non è che abbia avuto dei partiti, però io sono stato veramente per tanti anni accanto a lui, vicino a lui, lo considero una persona che ha dato moltissimo, posso dire che ci sono i ruffiani, sì, ma ci sono anche quelli che nella generosità hanno esagerato al punto da scadere nella ingenuità. Per esempio? Perché Berlusconi si è fidato di chi non si doveva fidare. Vabbè, quello... Vedi, no, no, ma fatemi dire una cosa. Marina Berlusconi è un gigante. Marina Berlusconi è bravissima. Io non so se adesso Marina... no, appunto, ma secondo te... Dovrebbe prendere in mano lei tutto. Dovrebbe prendere in mano tutto, dice Parenzo. Beh, io... Fai il tifo per lei. Io faccio sì, io faccio il tifo per morta, lei. Morta Marina Berlusconi. Guarda, sai cosa è? Morta Marina Berlusconi. Come? No, dico, ma hai ammazzato Marina Berlusconi niente. Subito. Come? Hai ammazzato la candidatura di Marina Berlusconi. Perché, no, no, io dico, l'ho sempre detto, Marina, per quel che la conosco e per quel che ha detto, sì, no, ha detto no, scendere in campo. Però dovrebbe, dovrebbe prendere in mano la situazione. È l'unico. Ma non lo so, guarda, ma non lo so se... Ma come non lo sai? Hai appena detto di sì, scusa. Emilio, sì, ma no, ti contraddici continuamente. Certamente una persona... Sei come Berlusconi, dice una cosa e due secondi dopo ne dice un'altra. No, ma non è vero. Marina ha detto una cosa e quella secondo me rimane. Il problema è diverso, vedi, nel parco di Arcore ci sono tanti animali, ce n'erano abbastanza, non c'era bisogno di mettere i pitoni, le cornacchie, le colombe. Ah, le pitonesse, dice. Le pitone. Vabbè, ho capito. No. Cioè, stai dicendo che la Sant'Anchè è stata più dannosa che altro. No, la Sant'Anchè è stata brava, nel suo genere è stata brava. Nel suo genere. Dire, il suo genere è stata una che perlomeno si è esposta. Ci sono quelli che non si espongono. Capito? Allora, ma non è quello. Vabbè, non sei incazzato con i traditori, dai. Non sei incazzato con no, i traditori. Come? No, sono incazzatissimo con i traditori. E come incazzatissimo? Non si sente che sei incazzato con i traditori? No, sono incazzatissimo, fra virgolette, con lui che non si è accorto in tempo delle persone che tradivano. Ho capito dove il discorso? Lo sapeva anche perché io gliel'ho anche detto. E gliel'hanno cioè, detto tu gli hai detto che Alfano lo avrebbe tradito? No, la verità è Alfano che tradisse o meno. Guarda, una cosa ti posso dire, ma rimane fra di noi. Sì, Daniel, che forse lui. Tanta simpatia umana per Alfano, ma che ci penso? Forse non ce l'aveva, non lo so. Però cioè, non ho capito, scusa. No, non credo che forse fosse particolarmente simpatico, ma dipendeva forse dal fatto che prima c'aveva gli occhiali, poi non c'aveva gli occhali, non lo so. Comunque guarda, ti ripeto, io l'ho sentito Alfano, era... È l'inizio del 2000. Ah no, non c'era l'inizio del 2000. Vabbè, insomma, recentemente. Come recentemente? L'inizio del 2000 o recentemente? Vabbè, ma sei completamente... Non abbiamo rapporti. Chiedimi di qualcun altro e io ti dico... Ma Verdini sì, che no. Piange, ci credi o no? Verdini che si è messo a piangere. Io ho visto Berlusconi commosso e ho ritenuto che quando si è coperto il voto avesse un momento di commozione. Verdini è un simpaticone, devo dire la verità. Vabbè, scusa, a parte Verdini, io dico, tu consigli i domiciliari o i servizi sociali a Berlusconi? Io considero che Berlusconi debba fare tutto ciò che... No, ma gli consigli domiciliari, cioè di stare a casa o i servizi sociali? Guarda, io gli consiglio i servizi sociali. Sì. Però non questo giochetto che fanno, quello Don Pazzo, Don Pizzi, come si chiama. Ma dove dovrebbe andare? Servizi sociali, io avevo detto in un'intervista, non perché lo sapevo. No, ma dimmi dove? Ad esempio... in una di quegli istituti per anziani sì. Che con questo ricordando la persona che lui più ha adorato e dalla quale era più adorato la mamma in un istituto per anziani a pulire il sedere agli anziani, questa è la sua storia. Anziani. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso vedi, cioè, guarda, vedi, eccola qua. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. È ancora a casa, sì. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto. Come venga, votate con venga la recuperata contro Berlusconi. Venga, no, non è contro Berlusconi. Come no? È un governo per fare alcune cose. Poi, se c'è un dissenso politico su questo con Berlusconi, consentimi. c'è la libertà la facoltà di esprimere questo consenso, e non è che arrivano dei picchiatori come te per venire a perseguitarci, perché mi lasci completamente indifferente. Ma il problema non sono i picchiatori, che non sono, è che arriveranno gli elettori. Spero anche che non porti Iella. Sallusti che porta Iella, vai Cicchitto. Ma secondo me il passaggio più bello è un altro, è quello del giornale umoristico, peraltro un giornale dove Cicchitto ha anche scritto a lungo, il giornale umoristico Sallusti verso Cicchitto. Alla fine tutta questa divisione, tutta questa spaccatura tra i berlusconiani e i governativi, tra i berlusconiani e i traditori, chiamiamoli così, si è ridotta nel nulla, perché Berlusconi a un certo punto all'improvviso oggi ha deciso di dare la fiducia a Letta, lasciando di sasso anche quelli come Sallusti. I più grandi autogol che il centrodestra ha subito li ha subiti non per Libero ma grazie al giornale. Quindi ce n'è un elenco che non finisce mai, quindi lo leggo. Quali? Con un po' di divertimento, perché è un giornale umoristico. Quali? Quindi con una notevole forza di impatto da questo punto di vista. Certo che ci scrivevo, ma venivo anche attaccato. Ma che cosa vuoi? Continua comunque il travasso delle idee, mi sembra che ha una nuova edizione. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Letta ottiene la fiducia al Senato, voto in corso alla Camera, giornata storica, dice ora basta con i ricatti, ci sarà un cambio di passo vero e reale. Berlusconi prima fa pronunciare il gruppo per la sfiducia, poi va in aula, cambia la linea e annuncia il sì al governo, perché dice spero ancora nella pacificazione. La svolta del Cavaliere per evitare la scissione del partito, ma è braccio di ferro sui gruppi autonomi, Alfano, frattura inevitabile ma non irreparabile. Zanda, è nata una nuova maggioranza, le furbizie del Cavaliere non nascondono la sconfitta politica, Epifani, ormai non mi stupisco più di nulla. All'opposizione restano Sinistra e Libertà, Lega e Movimento 5 Stelle, polemiche per le minacce alla dissidente che aveva annunciato il voto per Letta. Bruxelles tira il fiato, il presidente della Commissione Barroso, la stabilità dell'Italia fa bene all'Europa, Draghi ora fate le riforme, bene borsa e spread. Iniziativa del presidente Obama per superare il blocco di bilancio che sta paralizzando i servizi federali. Il presidente incontra i leader del Congresso. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. La crisi del governo l'ha fatta Berlusconi, perché da quando è entrato lui sono di accatapascio. Che crisi dobbiamo? Ne dobbiamo ancora subire un'altra. Sono di là, pare che Berlusconi forse la vota anche lui la fiducia. Ma a me non frega niente, ma se ne va dalla faccia della terra, non è meglio invece dalla fiducia sua. Non la voleva la fiducia di lui. Io vorrei vedere con laccio al collo. C'ho il porto, c'ho il cappio, quello che mi hanno dato quelli di Verdi, ai leghisti, mi hanno dato il cappio quando l'hanno portato qua. Ce l'ho a casa, lo volevo portare stamattina, poi me lo sono scordato. Secondo te perché ha fatto tutto sto casino, la crisi? Ma che è tutta una menzogna che sa fare lui, è scenate, fa il coso, è il burattino, è un burattino. C'ha tutte quei zottoni là vicino, una peggio dell'altra. C'è la Sant'Anche che c'ha una bocca come i pagnotti del pane casareccio, del genzano, che se ce la metti in bocca c'entra tutto. Annarella. Va bene, 800 24 00 24, sentiamo i primi, va. Amerigo, provincia di Viterbo, buonasera. Buonasera. Allora? Mi senti? Sì, parli. Volevo dire che da oggi mi sento veramente un orfano politico. In che senso? Lei sperava che Berlusconi sparigliasse? No, allora, adesso le spiego brevemente. Spiegare, non c'è bisogno di spiegazioni, sia conciso. Io ho sempre votato nell'area di centrodestra, a parte le ultime votazioni che ho votato Grillo, perché speravo in una faccia nuova. Allora? Visto che quella cosa ha funzionato, adesso speravo vivamente in una caduta del governo, perché più, almeno per salvarmi l'IMU, perché io sono sicuro che le riforme che faranno saranno queste, cioè rimetteranno l'IMU, non toccheranno una lira alla spesa pubblica. Dunque? Cioè, quello è probabile. Quindi praticamente non faranno niente, questo governo resiste per farci pagare l'IMU. Va bene, allora, Merigo, grazie. Tania da Treviso, buonasera. Buonasera, sono Vania. Sì, dica. No, a me veniva in mente Berlusconi, mi sembra lo scoiattolo dell'era glaciale, quello che cerca la sua ghianda in maniera bramosa e si aggancia con le unghie sul ghiaccio mentre scivola via e la ghianda si allontana, o mentre rotola giù e cerca di appigliarsi, di prenderla in tutte le maniere possibili, ma ormai insomma l'era glaciale sta finendo e quindi certi animali si estingueranno e ne andranno avanti altri, insomma volevo solo dire questo. L'era glaciale, cioè Berlusconi, lei oggi ha visto Berlusconi, no, le ha ricordato l'era glaciale. Perché è stupenda? No, Parenzo? Non è oggi, no, è da bellissima tanto tempo, perché del chiaramente... Aspetti, aspetti, Parenzo, dunque? Dello scoiattolo, perché io ho visto il cartone animato, meraviglioso, del topolino, questo scoiattolo, scusami, che insegue questa ghianda dispettosa che scappa, e a lui viene capito di tutti i colori, ma lui testardo insegue questa ghianda che corre, lui... Esatto, è una cosa che va al di là del ragionamento, è una cosa proprio... va bene Tania, state zitti un attimo. Gabriella da Lucca, buonasera. Buonasera Cruciani, e volevo anche dire a Parenzo, sempre viva, viva Parenzo. Allora? Molto bene. Senta, io oggi ho sentito il direttore del giornale, no? Sì, Sallusti. Che diceva, ma Berlusconi è impazzito, ora a questa uscita ha dato la fiducia. Mi è venuto in mente una lettera di Veronica di 2 anni fa. Ancora? Quando diceva, ascoltate amici e collaboratori, date una mano a Silvio, perché Silvio è malato. Se la ricorda lei? Sì, sì, certo che me la ricordo. Allora? Ma che c'entra adesso, scusi, che c'entra? No, c'entra perché con questi cambiamenti che fa Berlusconi di umore, no? Che quando una volta si fa la cosa, praticamente sono un po' emozionata. Quando vabbè, Gabriella, sei emozionata, smetta di essere emozionata e andiamo a Torino da Mino. Buonasera. Buonasera, caro Mino. Volevo dire solo una cosa, qua tutti con Berlusconi, io non capisco perché non ce l'hanno quei giudici che l'hanno pugnalata. Fino adesso hanno mangiato, hanno scolpato, hanno mangiato la canna, adesso che stanno in difficoltà tutti che scappano e si mettono sempre attaccati alla poltrona. Sì, allora? Non capisco perché tutto addosso a Berlusconi, a parte che io volevo parlare dei gay che... Non sai che sulle piazzole questi vengono a bussare. Ah, la famosa storia. Ma dove ecco. Vivi, Crucià? Vabbè, ho capito, adesso mi hanno detto che c'era un servizio delle Iene, sì, me lo ricordo anch'io. Ho capito, ma non è che frequento le piazzole delle autostrade, scusi. Vabbè, lo so, tu mica fai parte della plebe. Ma no, ma che vuol dire? Ho capito, ma non è che frequento le piazzole delle autostrade, non faccio il camionista. No, tu mi sembrava che fossi lì sempre fuori dei gay, pure dell'altra scema da Boldrini. Ma non ho capito, scusi, professore, maestro che chiama da Torino, Mino. Sì, non può spiritoso, Crucio. No, ho capito, ma Mino, lei fa l'autotrasportatore? Esatto. E cosa ci vuole dire su questa storia degli omosessuali? È questa, che vanno da fastidio. Qua tutti a favore dei gay, tutti a favore degli altri. Che, insomma, noi adesso che diciamo, tra parentesi, normali, ci dovremmo... Ma quando è che vi danno fastidio? Dove, Mino? Dove vi danno fastidio? Dove ci mettiamo a dormire, Crucià, pur mentre stai camminando sull'autostrada di notte, si mettono a fianco della macchina, accendono la luce e ti fanno vedere quanto sono pezzi di merda. Addirittura? Addirittura. E perché? Che fanno? Perché? Che fanno? Fare quel camionista invece di fare il giornalista. Vabbè, ma cosa fanno di strano, scusi, cosa succede? Cosa succede? Si mettono come si fosse, si mettono con botte, si mettono con perizoma, perché fanno solo schifo a guardare. Tu mi dici, se io ti vedessi a 2 persone che si baciano in mezzo alla strada, che direi? Ma ho capito, Mino, ma che fastidio. Ma che fastidio ti danno? Che fastidio ti danno? Che c'entra la carne di maiale poi? Perché non è carne di maiale, che è? No, che fastidio ti danno? Scusa, spiegami, che fastidio ti danno? Oh, ancora. Se tu sei a guidare, si mette una macchina a fianco, guidano qua i 18 metri, quello si mette a fianco e accende la luce, a te ti viene da spondare e guardare l'occhio. No. E mentre l'occhio non guarda avanti, guarda di lato, che succede secondo te? No, però scusami, tu mi stai dicendo che addirittura provocano incidenti per rimorchiare i camionisti sull'autostrada? No, non sto dicendo che provocano, però se tu ti metti a fianco una macchina e si accende la luce, distinto guardi. E quindi non guardo più la strada, non è che sai tanto. Ma che ne sai che so, ma che ne sai che sono gay quelli là, scusami. Uno che si accende la luce, ti fa vedere che stai in berizoma e te ne ha la parrucca bionda. Che vabbè, fa? Vabbè, sono scene. Ma Parenzo, ma tu ci credi a queste cose o no? Ma io conosco il problema, perché lo conosco perfettamente, perché te l'ho allora... detto anche ieri, so la cosa. Penso che però questi fanno il loro lavoro. Che problema c'è? Ma io questo che non capisco, questi che chiamano, che si lamentano e che dormono, vabbè, loro dormono e questi qui bussano e chiedono se hanno bisogno di una prestazione, che insomma è gente che offre, che offre un servizio in fondo. Io dico sempre, ho cominciato ad amare la zanzara quando ho preso la macchina, la tratta Roma-Siena, la Po con la macchina. Da lì non ho più incrociato Parenzo, ho cominciato a sentire la zanzara. Sotto salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba butto spesso il bici, corica, corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. Brunetta sta parlando adesso alla camera, vogliamo risentire l'imbarazzante intervento oggi prima di Berlusconi? Sì. Che sì, ha dato sì, la fiducia sì. Al governo Letta? Sentiamo, va, sentiamo, sentiamo. Il presidente Berlusconi ha messo in votazione fiducia o sfiducia e il risultato è stato unanimità per la sfiducia. C'è stata anche la controprova, nessun voto per la fiducia. Poi è arrivato Berlusconi, la Santanchè dice ho votato la fiducia a Berlusconi e non a Letta, voterò la fiducia a Berlusconi e non a Letta. Comunque la cosa più pazzesca è questa, alcuni hanno tradito Berlusconi, questo ormai è evidente, no? Altri, forse i più fedeli, sono stati fottuti da Berlusconi stessi. C'è una storia di tradimenti continua, cioè per alcuni più fedeli, tra cui Verdini, forse anche la Santanchè, Sallusti e altri, sono stati infiocinati dallo stesso Berlusconi alla fine. È una cosa pazzesca. No, ma soprattutto la cosa incredibile è il titolo del giornale, eh. Qual è il titolo del giornale? Online. Allora, aspetta un attimo. In collegamento con noi il direttore Alessandro Sallusti che ci dà il titolo del giornale di domani. Buonasera. Buonasera al covo di comunisti di merda, buonasera. Allora, qual è il titolo del giornale di domani? Ma domani abbiamo fatto una grande inchiesta, una per tua importanza il giornale. Domani ha vinto Berlusconi. Ma Occhiello. Come? Ma come ha vinto? Guarda, abbiamo fatto anche delle indagini su Radio 24 con Confindustria, ma parleremo più avanti di questo. Abbiamo scatenato i macchini del giornale contro lo squinzi. Ma comunque non importa, traditore tra l'altro. L'occhiello ha vinto per lo suo il titolo di apertura da 12 colonne. Occhiello sotto, abbiamo messo Cicchito e della P2. Ma come? Un'inchiesta contro su Cicchito. Notizie, diamo solo notizie, guardi. Cioè, vabbè, d'accordo. E poi? Altre cose? Altre cose abbiamo appunto, cioè, Quagliariello ha un nome di merda, questo come commento. Ah, così, Quagliariello. Bene, questi sì, di... è un Elzeviro, un commento che abbiamo fatto sobrio a margine contro Quagliariello. Lupi è un fallito, abbiamo anche dei documenti che dimostrano che è proprio un fallito, non ha mai fatto niente. Abbiamo capito, questi titoli del giornale di domani, grazie direttore. Io peraltro sono una pitonessa e quindi non appartengo né ai falchi né alle colombe. Vabbè, Mino, la vogliamo smettere con questa storia? Ma come la vogliamo smettere? Io mi faccio un culo a lavorare sul camion, si trattengono i soldi dalla busta paga, io devo mantenere a questi quattro stronzi che stanno là dentro, quella Boldrini che dice che la donna non deve servire la pasta a tavola, e chi è? Mica possiamo permetterci tutti quanti camerieri indiani con le pene in testa. E che c'entra, scusa? Ma come che c'entra? C'entra come? Allora? Allora niente, volevo dire questo, va bene così, voi vivete così, quando poi scoppierà la bomba qua che non si può più andare avanti, vedremo come andrà a finire. Vabbè, Mino, grazie, andiamo a Terni, Alessandro. Buonasera a tutti. Dica. Allora, io sono qui più che altro per fare un appello, diciamo, agli italiani. La settimana scorsa il manager della Barilla... per un'affermazione è stato messo in croce a livello nazionale, quando invece nessuno ha detto niente per la svendita della Telecom. Quindi quello che volevo dire è questo: questa classe politica PD e PDL, moderati vari, ci sta prendendo in giro. sta prendendo in giro tutti quanti gli italiani, perché non parla di problemi reali come quelli della sovranità monetaria, dell'immigrazione, sì, o delle aziende strategiche che sono state svendute da Prodi, da D'Alema, sì, e da vent'anni. Alessandro, sei venuto qui a farci il comizio su non so che cosa da parte di movimenti di estrema destra, non me ne può fregare di meno, e dunque può anche smettere questa telefonata, può anche chiudere il telefono, va bene? Sì, sì, no, ma si tratta di parlare di politica, no? Ma noi parliamo di quello che ci pare, non è che ce lo deve dire lei di cosa parliamo, ha capito? Certo, la gestione era su Berlusconi, sì, e io stavo rispondendogli dicendo appunto che è ora di smetterla di dare il voto a queste che da vent'anni non fanno altro che stare insieme, vabbè, con il centro-sinistra. Va bene, Luigi da Latina. Sì, ciao a tutti. Volevo dire che questa crisi è stata soltanto una farsa per permettere l'aumento dell'IVA in maniera tacita, diciamo così, e senza troppi scossoni da parte dell'opinione pubblica. Ci sono stati una serie di eventi concatenati, se è stato caso, nei giorni scorsi. L'Unione Europea ha lanciato l'allarme economico sull'Italia. Il Ministro dell'Economia ha detto che ha annunciato le sue dimissioni e poi ha taciuto. A pochi giorni dal Consiglio dei Ministri parte questa crisi. Dimissioni dei ministri, allora? Salta il Consiglio dei Ministri e ci danno l'IVA. Dunque? Come no? Oggi Berlusconi che fa? Vota la fiducia al governo. Dunque? Tutta questa situazione, noi ci troviamo con l'IVA in più, al 22%. Sì. Non ci sono stati scioperi e quant'altro. Il governo è forte perché gli italiani, per paura della crisi, hanno sperato tutti quanti che si vabbè Luigi, però adesso andiamo alla sostanza, su ragazzi, svegliatevi stasera, ma che è questa cosa di analisi, no. Ma non è che pane bianco, questa è la zanzara, non è che abbiamo bisogno di analisi dotte, la crisi, allora, vada al sodo, avanti. La crisi è stata creata ad arte soltanto per aumentare la crisi, per aumentare l'IVA. Benissimo, ecco la strozzata delle 19:40, era già stata aumentata prima l'IVA. Benedetto dalla provincia di Ancona, su. Allora, io due cose, la prima, l'unica cosa sensata che si è sentito oggi è stato Checco Zalone. Cioè? Perché Checco Zalone, la canzone in spagnolo di Checco Zalone, è stata l'unica cosa sensata che si è sentita oggi. Veramente è di ieri la cosa, comunque. Cioè. È una cosa straordinaria. Vabbè, poi? L'altra cosa, sì, è che ho il dubbio, però confermami te, che sia tutta quanta una buffonata. Nel senso che si sono messi tutti quanti d'accordo, perché adesso cosa succede? Col nuovo gruppo parlamentare, sì, devono fare di nuovo anche le commissioni del Senato, sì, che sono quelle, devono ridecidere le percentuali. Sì, no, ma è una buffonata questa roba qui, è già stata esclusa questa roba qui, che devono rifare di nuovo, e dunque anche la commissione, la giunta per le autorizzazioni, eccetera, eccetera. Sì, ma non è vero, non succederà, non è così. Perché non è vero? Ma non è vero, non è così, è già, non è vero, cioè non ci sarà bisogno di rifare la giunta per le immunità perché ci sono altri gruppi parlamentari, e dunque allungare ancora la vita parlamentare di Berlusconi perché non vorrà votata. Non è vero, non è così, cioè, vabbè. Non è così. Domenico, Checco Zalone. Va bene, adesso lo rimando. Domenico, provincia di Roma. Sì, Domenico, dica. Sì, senta, allora io volevo fare un commento sulla giornata di oggi, ma sì, a questo punto non è talmente sciocco, cioè è talmente scemo quello che è successo oggi, che invece mi ha dato lei uno spunto per riallacciarmi al discorso un po' dei gay, quello del commento sulla Barilla. Io ho sentito quella famosa intervista, perché io vi seguo, sì, sempre, e vi ringrazio per di esistere a tutti. Un attimo. Cerchiamo di svegliarci, che mi sto rompendo i coglioni. Chi è questo? Morelli? Sì. Sono Cruciani, ciao, come stai? Ciao, bene. Ma che cosa hai combinato? Hai fatto una cazzata, su. È una leggerezza rispetto a un tema assolutamente pertinente come quello della genitorialità. Sì. Nel quale c'era, in quella foto, c'era una frase che assolutamente, purtroppo, non ho visto. Che, scusa? No, però scusa, tu hai scritto gay e pedofilo. Vendola, sono pronto a fare no, la mamma. No, attenzione, io hai postato un manifesto in cui c'è Vendola e il suo compagno, con scritto gay e pedofilo. Vendola, sono pronto a fare la mamma, no alle adozioni per i gay. Vendola vuole fare la mamma, qui nasce il caso, genitore 1, genitore 2. Vabbè, insomma, hai dato a Vendola del pedofilo, su, diciamo la verità. No, attenzione, assolutamente no. Beh, come no? Hai postato quel manifesto? Perdonami. Dimmi. Se mi fai tu, parli tu. No, certo. Allora, io ho postato quella cosa sulla quale ho visto una foto e la scritta, appunto, voglio fare la mamma. E io infatti ho commentato quella cosa. Purtroppo, e su questo puoi crederci o non crederci, non ho letto la parte sopra. E quella è stata assolutamente una leggerezza di cui mi sono scusato. Come fai a non aver visto la parte sopra? Non l'ho vista, non ci credere, però mi sono scusato. Cioè, hai visto la scritta gay e pedofilo sopra? No, quella non l'ho vista. Ah, non hai visto? Cioè, tu hai visto Vendola col fidanzato, la scritta no alle adozioni per i gay, e non hai visto la scritta sopra gay e pedofilo? Ho visto la scritta voglio fare la mamma e io sono pronto a fare la mamma. Sì. E io, tant'è vero che poi puoi crederci o non crederci, io ho commentato quella cosa lì. Però scusami, infatti io sono assolutamente sereno, riconfermo tutto quello che ho scritto. Vabbè, è d'accordo, tu non sei d'accordo con quello, molta gente non è d'accordo a chiamare genitore 1, genitore 2, molta gente non è d'accordo all'adozione per i gay, non è questo il punto. Sull'altra scritta, ribadisco, puoi crederci o non crederci, non l'ho vista, tant'è vero che mi sono scusato, quindi cioè, se fosse stata voluta non mi sarei scusato, tanto quanto non mi scuso per quello che ho scritto, l'altra cosa, quello che ho scritto. Vabbè, io. Vabbè, quello è legittimo sostenerlo, accostare l'omosessualità alla pedofilia, in realtà no. Comunque, Vendola ti ha querelato, lo sai, sì? No, non lo so, per ora non lo so. No, te lo dico, Vendola ti ha querelato, ha annunciato che ti querelerà, ti denuncerà per diffamazione, non so, eccetera. Qualcuno dice che ti dovresti dimettere da capogruppo della Lega al Comune di Milano. Cioè, uno non è che, capito, non è che uno se la può cavare, io te lo dico con cioè con sincerità, non è che uno se la può cavare dicendo non ho visto la scritta sopra, anche perché c'è la foto che campeggia di Vendola col suo fidanzato e sopra gay e pedofilo grosso come una casa. Parenzo, tu ci credi? Un attimo solo. Io voglio dire questo, Morelli, per chi ci ascolta. Prego. Da tutta Italia. Buonasera, Parenzo. Ciao tesoro, devi sapere che il signor Morelli, ex assessore della giunta Moratti, attuale capogruppo della Lega, non è nuovo a queste, che io chiamo sobriamente stronzate. Vabbè. Non è nuovo, vabbè, lo dico in 30 secondi poi mi zitto. Non è nuovo perché già quando venne il ministro Chiongge a Milano... Beh, voleva stringergli la mano, non è che voleva fare... voleva fare il buffone. Lasciamo parlare Parenzo, va. No. No, Cruciani, io non ti permetto di giustificare. Beh, voleva stringere la mano alla Chiesa. No, ragazzi, prego, non Parenzo, fate i coglioni sua. Con me. Che non cosa voleva fare? Cosa voleva fare? Non fa razzistelli, non fate i furbi con me. Vabbè, cosa uno voleva due, fare? Dimmi. Uno e due, quello seduto della poltrona della radio della Zanzara. Ma cosa e voleva fare? Ma se l'ho attaccato non Morelli adesso. Non fate i furbi. Voleva provocare con una gheghina atroce, non mi vuoi stringere la mano? Beh, me ne farò una ragione, andatevi a vedere quel filmato di questo provocatore. Parenzo, ma lei si immagina di andare davanti a una persona, peraltro un ministro, che lei può essere Parenzo, un cittadino, un altro cittadino qualunque, italiano, chiedere di stringere la mano e questo ritenerlo una provocazione? Ma al di là di questo, Morelli, scusi un attimo, ma al di là di questo, Morelli, è una mano, è una provocazione, ragazzi. Vabbè, cioè, d'accordo, comunque il mondo al contrario. Però scusi, appunto. Morelli, resta un fatto. Prego. Che lei postando quella foto, scrivendo un commento sotto, ha dato del pedofilo a Vendola, volente no, o non io, no. Beh, come no? Dai, Morelli, Cruciani, su. Io non ho dato, no, io sulla mano ti appoggio, per cui uno può fare tutte le provocazioni, però su questa storia non ti posso appoggiare. Tant'è vero che ho chiesto scusa proprio per quella cosa, perché io non la riconosco come una cosa assolutamente... Ma uno non può dire non l'ho vista, non può dire non l'ho vista, come fai a dire non l'ho vista? Ma dai, non l'ho vista, non può dire non l'ho vista. Io pensi quello che crede, Cruciani. Ma sei d'accordo con Barilla, per esempio, che non vuole le pubblicità per gli omosessuali, per le famiglie degli omosessuali? Ma io mi preoccupo più perché sulla scelta di Barilla, che con i suoi soldi fa quello che crede, su tutto quello che ne è scaturito, sulle parole, dalle parole di Barilla, che a me, secondo il mio punto di vista, non hanno offeso nessuno. E dunque tu mangerai più pasta Barilla, mangerai più pasta Barilla, anche tu? Detto questo, Barilla ha espresso un suo pensiero e sul suo pensiero è stato crocifisso. Ce ne faremo, anche qua ce ne faremo una ragione. Però scusa, Morelli, io dico una cosa, no? Prego. Uno, veramente, cioè, uscirsene fuori dopo questa polemica qua, dicendo io quella scritta lì, gay e pedofilo, non l'ho vista perché non ha... non va bene perché Cruciani, non va... ma rilanciamo, scusa, visto che il tema è pedofilia, eccetera eccetera, soprattutto secondo me il tema della genitorialità, allora rilanciamo, facciamo, piuttosto che sti slogan del cazzo, facciamo dei ragionamenti sul quali, per esempio, ci mettiamo intorno a un tavolo, facciamo dei convegni, cioè, secondo te la maggior parte della sulla genitorialità, ma figuriamoci, perché sennò rimane sempre, ma figuriamoci se Vendola, un attimo solo, abbiamo 30 secondi, un attimo. Vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo un cambio, vogliamo. Volete un cambio epocale? Provate la nuova Subaru Outback 2000 Diesel Lineartronic, la prima 4x4 boxer diesel al mondo con il cambio automatico CVT, per una fluidità di guida mai provata prima. Più che un cambio, è una rivoluzione. Subaru Outback 2000 Diesel Lineartronic Model Year 2014. Scoprila questo weekend negli showroom Subaru. La Zanzara. È con noi Alessandro Morelli, capogruppo al comune della Lega Nord a Milano, protagonista di una grande polemica, avendo dato, secondo tutti, non secondo lui, del pedofilo a Vendola, gay. Ma, e pedofilo, scusa, su internet. Vabbè, lui dice te, che non l'ha visto, e che te devo fare? Amico, possiamo te, ammazzare. Perché Vendola dovrebbe andare a discutere di genitorialità con Morelli? No, no, infatti non ci andrà mai, non ci andrà mai, non ci andrà ma mai. Lo faccia, perché... Però lo faccia qualcuno. Ma se ne discute tutti i giorni che riguardano questo tema. Ma chi se ne frega di questo convegno? No, chi se ne frega? Qua c'è un ministro che si chiama Kyenge che vuole togliere la possibilità. Ah, in realtà non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto. Sta succedendo a Bologna. Sì, sì, lo so. Per esempio. Genitore 1 e genitore 2. Morelli, però non sfuggiamo alla cosa principale. Secondo lei, i pedofili tra i gay ce ne sono molti o no? Ma purtroppo la pedofilia è una diffusa, realtà che va combattuta ed è diffusa. Scusa? Soprattutto dagli omosessuali. No. È diffusa purtroppo nella società, sappiamo che c'è. Ma è diffusa soprattutto dagli omosessuali, questo di chi? Tu sembri essere un esperto, no, di queste cose qua. No, io non ne sono esperto né di pedofilia né di omosessuali. Allora, però bisogna caro Morelli, c'è un tema sul quale ti vuoi dimettere o no? Ti dimetti da capogruppo? Ma no, assolutamente. Non io ho compiuto una leggerezza, ho chiesto scusa. Se non verranno accettate le scuse, qualcuno farà una querela, vedremo come andrà a finire. Bisogna valutare quali sono le leggerezze. Secondo me, per esempio, la leggerezza è che in alcune regioni del sud per tanti anni i bilanci sono stati solo verbali. Vabbè, ma che scritti. C'entra adesso? Quelle sono, ma adesso sono che c'entra i bilanci? Però, dai, sì, d'accordo, certo. Ci sono problemi più gravi quando rispetto. I sono in Oster, certo. No, però Morelli non è che ci si difende però, dicendo che i problemi sono altri. Dai, non ci si difende. Non mi sto difendendo, ti sto solo dicendo. Ma hai detto che non hai visto la scritta gay e pedofilo, Morelli? Gay e pedofilo, non hai visto? Uno non si può difendere così. Non ho visto quella scritta. Comunque tu ti difendi così, va bene. Parenzo, non ci crede, ovviamente, no? Ma no, a parte che è la scusa, è come la marmellata, no? Cioè apri il frigo, trovi il mezzo barattolo mangiato, Parenzo, arriva la mamma tu che e sei, dice, scusa, come mai? Tu che sei un veggente, il mago Parenzo da Padova. Come mai c'è mezzo barattolo di marmellata? Non lo so. Vabbè, ti sei scusato perché dopo hai capito di aver fatto una cazzata. Che c'entra? Uno può capire dopo che ha postato una roba. Ma assolutamente no. Tant'è assolutamente vero che le no. cose che ho scritto io, su quelle che ho scritto io, le firmo e le controfirmo, le strafirmo e le ripeterò sempre con grande fermezza. Perché non dai un bel bacio sulla guancia a Vendola? Un bel bacetto a Vendola. Ma se mi vuole querelare, secondo te, devo dare i baci sulle guance. Devo chiedere scusa, cosa che ho fatto, e quindi se vengono accettate, ben venga. Altrimenti si potrà fare un incontro, una stretta di mano, magari altrimenti darà la mano. Ma invece la cosa grave è che tu sei convinto, ti do del tubo che ci conosciamo da tanti anni, che nella base dell'eghista quella tua cosa ha avuto molto consenso. Vabbè, adesso lasciamo perdere questo argomento. Ciao Morelli, grazie, a presto. Ciao, grazie a voi, ciao, buona serata e buon lavoro. Ciao al mago Parenzo. Ciao. zanzara stronza. Mario da Roma, buonasera Mario. Buonasera a tutti. Allora? Allora, premesso che detesto ogni atteggiamento omofobo, però se mi danno il telefono di Parenzo, io stanotte alle 3 lo chiamo per vendergli i prodotti che vendo io. Tanto però ma basta che... con sta storia dei camionisti importunati. Io voglio bene i camionisti, però non mi pare che serpeggi il grande problema di essere importunati in autostrada da frotte, da branchi di omosessuali, come ho detto ieri. Dai, su. Lei fa il camionista. Sì, ma lei fa il camionista o no? Lei fa il camionista? No, assolutamente no. Allora, io dico, cari camionisti che siete in ascolto, siete tanti. Io non credo che il vostro problema principe, ne avete tanti di problemi, tanti. Non credo che il vostro problema sia qualcuno che a un certo punto qualcuno in qualche piazzola, quando dormite, che fa toc toc, vuoi farlo con me? Dai, su, e dai. Oh, finalmente abbiamo uno dei protagonisti di questi giorni, tremendi, il senatore Carlo Giovanardi. Buonasera, buonasera. Eccoci qui, citato, ormai compagno Giovanardi, marxisti per Giovanardi. Cari camerati. No, cari compagni, avanti Giovanardi, noi siamo dei scusi, un collega del PD mi ha detto caro compagno, che ho detto caro camerata, visto che è un governo di larga intesa. Posso dire una cosa? No, scusi, interessante questa cosa qua. Uno del PD gli ha detto caro compagno, caro io ho detto caro camerata, è un governo di larga intesa, quindi abbiamo pareggiato. Devo dire che però è stato un colpo di genio, perché Giovanardi, ovviamente il merito non è stato suo, anche lui lo ammetterà, ieri ha fatto all'improvviso, dopo le sue dichiarazioni, la borsa è schizzata, lo spread è sceso, è citato dal New York Times, credo ci siano citazioni di Giovanardi sui giornali americani, cosa mai successa a Giovanardi, diciamo. E Berlusconi si è arricchito del 6% in più dei Mediaset, che è aumentata. Cioè lei ha fatto arricchire Berlusconi? Eh sì. Io no, perché non c'è neanche un'azione, purtroppo. Però non ho fatto neanche aggiotaggio, ahimè. Un attimo solo, pubblicità, poi torniamo con un mito, una leggenda. Carlo Giovanardi, diventato compagno Giovanardi, mito assoluto per la sinistra. Oggi se non sei frocio non sei nessuno. Compagni, avanti il gran partito. Senatore Giovanardi, procediamo con questa. Rosso un fiore in petto ci è fiorito. Compagno Giovanardi? Cari camerati. Noi non siamo, noi non siamo più del PD che Forza Italia, ma PDL sempre all'opera fina, senza ideare il culto. Beh, devo dire una cosa, senatore Giovanardi, lei si attribuisce il merito in parte di aver fatto arricchire Berlusconi, cioè, nella giornata di ieri. Ma voi mettete su anche Giovinezza, perché facciamo il pandato, poi facciamo Biancofiore, o Biancofiore, simbolo d'amore, che sarebbe quello che io rappresento. Quella della DC, anche se Biancofiore, anche se Biancofiore ricorda uno dei falchi di Berlusconi. Ma questo è l'attualità, la storia è il Biancofiore simbolo però, d'amore. Però, scusi, Giovanardi, diciamo la verità, Berlusconi ha fatto fare una figura, io posso dirlo, lei lo può dire, forse non lo può dire, una figura di merda a questi falchi, pazzesca. Cioè, oggi Bondi, ieri Brunetta. Sallusti, poi ne parla Brunetta, erano, ne dicevano di tutti i colori. A un certo punto Berlusconi è andato sulla linea Giovanardi, ma dica la verità. No, è Giovanardi che è andato sulla linea Berlusconi. Io sono un otardo. Mi ha talmente convinto Berlusconi della bontà del governo delle larghe intese, dove abbiamo 5 ministri, il segretario e il ministro degli interni. Questo è vero. Che essendo un ragazzo tardo, io mi ha talmente convinto che non è riuscito a farmi cambiare idea. Quindi io sono esattamente sulla posizione che Berlusconi ha realizzato e concretizzato con questo governo. Però scusi, cosa dicono i falchi e Berlusconi stesso fino a pochi istanti fa? Qui questo governo non mi dà niente, mi mandano dritto in galera. Non c'entra niente il governo. Questo, come sapete, io considero una mascalzonata quella che viene fatta. Questo lo sappiamo. Ho capito, però. Ma è questo che metterà. 50 anni non si parlerà della giornata di oggi o di questa settimana per via dell'IVA o dell'IMU, si parlerà di questo storico che, se avviene, per 20 anni dividerà di nuovo il paese fra tifosi da una parte. Però scusi, sì, d'accordo, però Giovanardi, il problema è un altro, è che Berlusconi pensa che qualcuno doveva fare qualcosa, Napolitano, Letta, siccome non ha ottenuto nulla e qualcuno fra pochi giorni, fra poche settimane lo potrebbe arrestare, pensava che la caduta del governo potesse facilitare la vita. Ma guardi che questo non c'entra assolutamente nulla con la mattonata della decadenza, perché purtroppo Berlusconi decade per quando la Corte d'Appello deciderà l'interdizione dei pubblici. Cioè lei dice comunque la partita è finita, no? E i resti domiciliari ci va di stesso, ahimè, anche se lo ritengo vittima di una sentenza del dottor Esposito, sì, che ha contraddetto. Ma lei che gli consiglia, lei cosa gli consiglia Berlusconi? I servizi sociali oppure i domiciliari? No, no, non mi permetterei mai di mettermi nei panni di uno che vive una situazione angosciosa di questo tipo. Però oggi mancavano le condizioni politiche. Quando si va in Parlamento per sfiduciare un governo, bisogna avere delle motivazioni. Se le motivazioni non si hanno, bene ha fatto Berlusconi a fare un passo avanti alla fine. Ma chi è che l'ha deciso? Chi è che l'ha consigliato alla fine? Mi dica la verità, lei che sa tutto. Che è successo? Vero, noi avevamo già deciso, avevamo già presentato la nostra Ma Verdini ha pianto, è vero o no? Verdini ha pianto. Verdini? Ha pianto, pare che abbia pianto. Non lo vedo Verdini piangere, non mi sembra come insomma, impossibile. Commosso. Faccio fatica a vederlo. Però mi dica la verità, quanti complimenti gli hanno... Berlusconi ha fatto fare una figura di merda a questi qua o no? Mi dica la verità, sì. Dunque, il problema è che se fin quando ha chiesto le dimissioni dei parlamentari, che io non ho dato naturalmente, avesse o si fosse consigliato con Cicchitto, con me, insomma gente che io ho fatto i ministri rapporti del Parlamento 5 anni, ho fatto i vicepresidenti della Camera, vai, allora... scusa, no, per dire, quando hai fatto dare le dimissioni ai parlamentari, dovrei mettere le dimissioni, che te ne fai? Cioè, è una domanda molto semplice. Cioè, era una stupidaggine, dice lei? No, totale. Totale. Che non è capo né stato, è vero, che poi le hanno ritirate, poi i ministri che devono ritirarsi, non ritirarsi. Insomma, ma è un po' confuso sto Berlusconi. Ho capito, ma sto Berlusconi non c'è stato una delle migliori. Però è un po' confuso, è in balia di chi, dice Parenzo? In balia di qualcuno? È un po' confuso lui? Che no, è un po' stanco? Perché lui è stato l'uno. Quando anche, da quello che ho capito, oggi appunto i nomi che lei faceva, o che tu facevi, e lo spingevano alla rottura, sì, lui che è lucido, intelligente e sveglio, alla fine non si è fatto ingabbare su una posizione incomprensibile. Cioè non si è fatto fottere... E ha votato a favore. Non si è fatto fottere da Sallusti, dici tu? No, appunto. No. Il quale ho visto, l'altra sera l'ho visto per televisione, un po' nervoso. Ti dà del bollito, Ti dà del bollito, ti ha dato del bollito. No, peggio, ha parlato di la formazione Alba Dorata, sei come Alba Dorata. Sì, io non ho capito bene il riferimento, non ho capito, se io fossi Alba Dorata chissà cos'è lui. Cioè? Se lui è Alba Dorata, lui... Non lo so, non so immaginare. Hitler, peggio di Alba Dorata, no, solo il, Hitler. Il mio problema, vedete, il mio problema è che io sto seduto, no? Sto fermo, anche oggi mi ha detto, ma voi, Giovanardi è un rivoluzionario, in Italia stare seduti, stare sempre nella stessa posizione e sulla stessa poltrona e sulla stessa poltrona, tutti gli altri si spostano da una parte o dall'altra, io continuo a dire sempre le stesse cose, ma prendo atto che in questo paese se si viene eletti nel Popolo della Libertà, si fa parte del gruppo del Popolo della Libertà, gli altri fondano Forza Italia, io non vado in Forza Italia e dice c'è una scissione. Ma com'è una scissione? Siete voi che ve ne andate? Dove, appunto, ma scusate, se voi vi vogliono cambiare nome, cognome, personalità, radio, programma, ci incazziamo, ci incazziamo, ci incazziamo, ci incazziamo come bestie, ci incazziamo come bestie, certamente. Appunto. Però io dico una cosa, cambiare nome, comunque, cognome. Scusami, adesso, Sallusti che ti dice, Sallusti, aspetta un attimo, aspetta un secondo, Sallusti che ti dà, primo del traditore, del bollito, dice traditore, bollito alla Giovanardi, Giuda come l'utile idiota Fini, e poi anche dice... Qualcuno da Modena oggi mi ha detto che aveva letto, diceva, ma perché non gli mandiamo un bel bollito alla modenese, a Sallusti? Beh. Vede che ogni riferimento era puramente casuale, ma no, ma cosa devo dire? Io questa critica non è una critica, è un'osservazione. Il giornale ha tenuto una linea che negli ultimi due anni ha fatto crescere a dismisura i grillini, perché è chiaro che quando si... Cioè il giornale aiuta i grillini, se Sallusti ha aiutato i grillini. No, infatti, beh, certo, perché quando... c'è una critica sempre totale di solvente verso i parlamentari, il Parlamento, sempre indicati. È evidente che si alimenta la protesta. Ma no? La coppia Santanchè Sallusti è nefasta, secondo te, per il centrodestra? È una coppia? Nefasta per il centrodestra, che coppia è? No, io non, semplicemente non condivido questo tipo di impostazione e anche non condivido. Dico nell'interesse di Berlusconi, sono amico di Berlusconi, sono stato 20 minuti e lui l'altra sera, dopo la riunione, ci siamo parlati francamente, per esempio, questo non è un segreto, venerdì abbiamo la giunta e io ritenevo che poiché si va in mondovisione, c'è la ripresa pubblica, dovesse arrivare l'avvocato Coppi a spiegare a tutto il mondo, per filo e per segno, quali erano le forzature dei principi fondamentali. E perché non Ghedini? Perché Ghedini no? Ghedini, senatore, non ci può venire. Ah, non può andare, Invece, a quanto pare, la decisione di lasciare la sedia vuota. Sbagliato. Come si fa a lasciare la sedia vuota nel momento in cui... No, ma per dire, io ho parlato con lui, poi rispetto alla sua decisione non la condivido, ma per dire, con Berlusconi si parla. E se invece quelli continuano a scrivere, però, che chiunque dissente è un traditore di questo passo, però Parenzo, di questo passo ci diventa pro gay e fuma uno spinello Giovanardi, cioè, non esageriamo. Ma c'è anche Parenzo, sì, che è seppellito dal nulla, gli è nato un figlio, ma non lo sei, no. Stasera sembrava quasi una trasmissione seria, non è ancora intervenuto, no, sta qui no, sta... ho provato a intervenire, ma c'è... no, volevo informare l'amico... no, dico tutti due, avete visto quando io spiegavo sempre in diretta con voi dove saremmo arrivati con questa storia dei gay, cioè alla censura, all'aggressione, semplicemente perché uno dice che la pasta Barilla fa come pubblicità qua della famiglia. Sì, un po', sì, è vero, è stato crocifisso Barilla. Ma lei mangia pasta Barilla di continuo adesso? Solo. Beh, bisogna vedere se dopo la prima dichiarazione di Barilla, sì, dopo la seconda dichiarazione deciso, dopo la terza ho cominciato a vacillare. Bravo, bravo. Perché se uno si piglia del cretino da Vecchioni, cretino, secondo me avrebbe dovuto reagire perlomeno dando del cretino a chi gli dava del cretino. Sì, non invece... chiedendo scusa a chi gli dà del cretino. Sì, dicendo che le mie idee sulla famiglia devono cambiare, devono evolversi. Ma deve vendere la pasta, Cruciani, lui ha detto di essere favorevole al matrimonio gay, quindi avrei dovuto essere io ad arrabbiarmi con lui. Esatto. Non i gay, non ho capito. Io, in effetti, no, ma siamo arrivati al punto con questa legge, se passasse al Senato, che tutta questa vicenda sarebbe trasformata in una vicenda da tribunale. Penale, in un reato, perché quei signori l'avrebbero denunciato penalmente. Non credo che sarebbe, è esattamente così. Cioè, la frase detta da Barilla con questa legge lo poteva portare in tribunale. Signori, perché discriminazione che fa lui è di rappresentare la famiglia, come ha detto, fatta di padre, madre, figli. Sì. Mentre la famiglia potrebbe essere fatta da padre, figli, madre, figli, eccetera, eccetera. Se no c'è una discriminazione. Cioè, con questa legge Barilla rischia l'incriminazione. Ma è esagerato questo, Giovanardi. Non è esagerato, basta leggere il combinato disposto della legge reale. Comunque, sto gruppo al Senato lo fate o no? Ma io penso di sì, ma per la semplice ragione che hanno dato gli altri in Forza Italia, che non è nel Partito Popolare Europeo e non verrà preso nel Partito Popolare Europeo. Noi che vogliamo, ma perché non verrà preso nel Partito Popolare Europeo? Chi l'ha detto? L'ha già detto la Colpi. Chiaro che nasce come un partito che ha una sue caratteristiche diverse, anche per scelta, no? Cioè, chi l'ha detto? Scusi, la Merkel, no? Col. Sì, no, la Merkel. Scusi, e lei è rimasto a Kohl. Direttamente europeo di non accogliere Forza Italia nel Partito Popolare Europeo. Cioè, se c'è Berlusconi, vogliamo rimanere nel Partito Popolare Europeo. Ma come si chiamerà questo gruppo parlamentare? No, questo non lo so. Che ne so, Nuova Italia. La continuità del Popolo della Libertà. Come lo chiamerebbe lei? Non lo so, stasera abbiamo una riunione alle 9:30. Più o meno, c'è un'idea, una sua idea. A me se potessimo tenere Popolo della Libertà andrebbe benissimo, cioè se potessimo essere noi continuatori. Beh, è difficile, però comunque se, altrimenti che è difficile, ma sarà una variazione sul tema. Ma lei è una variazione sul tema, che ne so. Si è parlato di Nuova Italia, no? No, io questa non l'ho mai sentita, ma comunque un qualcosa che fa riferimento. Ma volete i quattrini, una parte di quattrini li volete? Beh, qui forse serve una parte dei debiti, è sempre un discorso rischioso, non si capisce se si va a chiedere soldi o debiti. Beh, però una parte del finanziamento pubblico, per adesso il finanziamento pubblico rimane, per cui i soldi dovrebbe... rimane al PDL, però infatti ci sono questioni anche giuridiche intricate sulle quali è meglio... Comunque il gruppo lo fate, fino adesso quanti siete al Senato? In realtà tutto alla Camera sono, mi sembra, 25-26. Al Senato? Ma dovrebbe essere più o meno altrettanti, all'inizio, però... Questo non è un segreto. Sì. In scelta civica ci sono tantissimi parlamentari che potrebbero passare con voi. Sì, non passare, insieme fare una cosa che ci trova accomunati. Sì. E nella stessa visione di collegamento con attenzione, però stando nel centrodestra, tecnico. Noi siamo incardinati nel centrodestra, siamo alternativi alla sinistra. Non cominciamo con i giochini di dire ma noi siamo in mezzo, ci alleiamo da una parte o dall'altra. Noi siamo nel centrodestra, anche se abbiamo una nostra identità che non è quella di Fratelli d'Italia o della Lega o di Forza Italia. Un altro partito se fa una cosa pazzesca. Comunque. Parenzo, dimmi. No, dai. Non è un altro partito. No, potrebbe saltare, guarda, informo il buon Giovanardi. Informo l'ottimo Giovanardi che intanto potrebbe saltare tutto, perché stasera, come dice il giornale di Sallusti online, questa sera a Palazzo Grazioli c'è un incontro tra Alfano e Berlusconi. Per evitare di fare questa, quindi potrebbe saltare tutto secondo il giornale. Vertice a Palazzo Grazioli stasera. Come? Ci sono anche le armi segrete. Cioè? Cioè? cioè in queste notizie dice adesso vinciamo la guerra perché ci sono le armi segrete, c'è il colpo di coda all'ultimo secondo. La guerra si è già chiusa, si è chiusa oggi. Cioè avete vinto voi? Cioè avete vinto voi. E la guerra è finita con un con la vostra vittoria di tutti sulle posizioni. Vabbè, adesso questa è la diplomazia, però l'avete vinta voi, su dai Giovanardi, no, ammetta la sua vittoria, compagno Giovanardi, su siamo camaro camerata, noi siamo stati più convincenti evidentemente, avete vinto nella logica politica. E questo ripeto, poiché viene fatto Forza Italia, hanno inaugurato la sede l'altro giorno, ma sempre per la stessa ragione che vi dicevo prima, non è che io sia un pacco postale e mi dicono da domani non sei più tu, cambi partito. No, ma ho capito, idea. Ho capito perfettamente. Però scusi un attimo, Sallusti per esempio sta distruggendo Berlusconi? Allora, io credo che la linea del giornale anche di questi giorni, anche per i problemi che ha giudiziari Berlusconi, non lo aiuti a risolvere i suoi problemi. No, ma in generale lo sta distruggendo? Sì, perché nelle posizioni, tiene posizioni talmente radicali che i lettori, tanti lettori del giornale, credo siano andati ad ingrossare le file di Grillo. Ah, per cui ha favorito Grillo contro Berlusconi. Secondo me sì. Senta, ma lei ci starebbe mai in un partito? Lei ci starebbe mai in un partito con a capo Marina Berlusconi? Ma questo è un problema. Come si fa a dire? Voi ci sareste mai in un radio diretta da una persona che non conoscete, che non avete mai visto? No, ma ho capito, ma che non sapete chi è. Cioè, ma non è un discorso vuoto. Che cosa non è vuoto perché si è fatto nome. Se mi chiedete se sono per la monarchia o per la repubblica, sono repubblicano. E dunque non è per la monarchia, cioè non è per la successione dinastica. Se Marina Berlusconi ha passione politica, è brava, si mette alla prova, è un leader e ha capacità, mi sta bene. Ma dice Marina Berlusconi perché è figlio del mio amico Silvio Berlusconi, non è sufficiente. E dunque no alle successioni monarchiche, come dire? No alle successioni che non siano determinate. Però lei non ce la vede, non ce la vede in politica. Bush padre ha fatto il presidente, Bush figlio ha fatto il presidente, evidentemente Bush figlio aveva anche le capacità. E secondo lei ce l'ha? E secondo lei ce l'ha Marina? E non lo so, non la conosco. Vabbè, più o meno, su. No, ma non ce l'ha più pallida idea, se politica, non so neanche come la penso politicamente. La pensa come il padre, secondo me, non è che la pensa. Non so, se la pensa come il padre, me va bene, se la pensa diversamente, non lo so, io non l'ho mai sentito esprimere le questioni. Compagno Giovanardi, quanto sono contento. Parenzo, che cosa vuoi chiedere in finale? Conclusione. Volevo rassicurare il signor Giovanardi che sicuramente Marina Berlusconi non vota PD, ecco, su questo non avrei dubbi. Invece lei, secondo le accuse di Sallusti, è diventato alleato principale del Partito Democratico, è alleato del PD che vuole umiliare Berlusconi e vuole mandarlo in galera, secondo Sallusti, secondo Sallusti. Allora, faccio una confessione pubblica, io sono democristiano anticomunista, e finché c'erano i democristiani, il PD o il PC in Italia non ha toccato palla. E allora? Chiaro? No, allora io continuo nella tradizione di quelli, se volete la Don Camillo, che non favorisce le sinistre o il PD, anzi cerca di mettere in difficoltà, pigliando voti, rafforzando il centrodestra. Poi, come in Germania o come in Spagna o come in Inghilterra, se succede che le elezioni si vincono, ma non c'è i numeri, la Merkel se la fa la grande coalizione, non è che la Merkel diventa comunista. Vabbè, abbiamo trovato la cosa incredibile, e saluto il senatore Giovanardi, è che il grande incendiario, il nemico degli omosessuali, il nemico dello Spinello Libero, il grande censore, quello additato come il mostro per le sue dichiarazioni su Aldovrandi e su altre cose, diventa improvvisamente, io non è che lo dico perché lo penso, Parenzo, però è incredibile, diventa improvvisamente l'uomo più responsabile d'Italia, Carlo Giovanardi. La saluto, l'abbraccio, arrivederci. Buona serata. Quando io sento l'inizio della trasmissione, dopo pochi minuti spengo la radio. Avete toccato il fondo. La meravigliosa Alessandra Mussolini. La meravigliosa Alessandra Mussolini oggi davanti a un cronista inglese. Sentite. Perché dovrebbero fare il gruppo? Noi abbiamo votato insieme. Mrs. Mussolini, Matt Fife from Botticello is in quick question, please. You speak wonderful English. What? Senti, it's better that you talk with Alfini. Yeah, but I want to speak to you, I know. But you speak wonderful English. What do you make of this political drama today, Mrs. Mussolini? Alfano è il segretario del suo partito, lo chiama così. Alfini. Ma non è una frattura. Io chiamo quelli che. Ma non è una frattura. Anche in inglese l'ha detto, giusto? Mrs. Mussolini, what do you make of the political drama today, please? Just tell me what you think. It's not a drama. It's not a drama? It's not a drama. It seems very dramatic. Where do you come from? England. England, pensate a voi. È sempre la numero uno, pensate a voi. Talk with Alfini. Finisce come fini. Comunque mi scrivono cari amici di cui non posso fare il nome perché non posso fare il nome senza il loro consenso. Berlusconi si è guadagnato le galere per tenere questi stronzi in Parlamento. Erano finiti con la DC e il Partito Socialista. Quegli stronzi sono riferiti ovviamente al signor Giovanardi. Giovanardi. Ripeto la frase: Berlusconi si è guadagnato la galera per tenere questi stronzi in Parlamento. Erano finiti con la DC e il PC. Che battaglia! Che c'è il traffico? Che palle sto traffico, mi hanno rotto veramente i coglioni. Antonio dalla provincia, ma non quelli che fanno il traffico, poveracci, eh? C'entrano a niente. Antonio, provincia di Bologna, due palle, guarda, non ne posso più, rimettetemi Ferrara. Antonio dalla provincia di Bologna. Buonasera! Vabbè, Antonio. Buonasera, non sento niente. Aspetti, aspetti un attimo, Ferrara. Adesso lo riprendiamo. Allora Antonio? Volevo dire, stasera ma voi chiami ma perché si, perché si senta così male? Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire. Graziano da Palermo, Graziano, buonasera, buonasera. Buonasera. Allora? E allora oggi al Senato si è svolta una seduta credo molto importante per la vita politica e civile di questa Repubblica. In che no? senso? Scusi, questo lo sapevamo, eh? Nel senso che due senatori, il senatore Piano e il senatore Abbado, che purtroppo non hanno potuto partecipare perché erano impegnati nei loro rispettivi i famosi lavori, senatori a vita, sì certo, nei loro rispettivi lavori che li impegnano giustamente in tutto il mondo, e quindi la colpa non è loro ma è di un signore napoletano che sta a Roma, che oltre novantenne, che ha avuto questa bizzarra idea di nominare senatori a vita. Graziano, le devo dare ragione, in una giornata così campale forse è meglio che non c'erano, perché altrimenti Ma se non ci vanno nemmeno per votare la fiducia a un governo, quando dovranno andare? Forse è meglio che quando c'è la fiducia non ci vanno, perché altrimenti potrebbero essere decisivi, paradossalmente. Però lei ha ragione. Cioè, questi qua in una giornata così importante per il Senato eccetera eccetera, dove stanno? Ma non è loro la colpa, questi facevano tutt'altro nella loro vita. Quello fa l'architetto, progetta a Tokyo, in tutto il mondo. Quell'altro suona i concerti i più importanti che si tengono. Non è la scelta del nostro presidente che purtroppo è stata quantomeno bizzarra. Grazie, grazie. Segreteria telefonica. Segreteria, parte. Che delusione Berlusconi. Io mi aspettavo in Parlamento merda e sangue, ma delusione. Che delusione. Ciao. Oh, ma qua c'è sta la rivoluzione fra poco. A sveglia ragazzi, andiamo in piazza. Parenzo, Cruciani, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ora traduco nella vostra lingua. Smettetela di rotolarvi nella merda e pensate all'animaccia vostra. Cruciani, prima di sparlare di Berlusconi, si sciacqui la bocca e a quel merdoso comunista stronzo di suo aiutante gli mandò un collittorio di 50 centesimi che non si permettesse di parlare male di Berlusconi, ok? Sti stronzi di merda. Ciao ragazzi, devo fare un racconto. Ieri con la zanzara a tutto volume in macchina, finestrino basso, giro per le strade di Roma, mi fermo a un semaforo e una ragazza vicino sente che sento la zanzara e inizia a sorridermi in maniera strana. Ora non so se è perché è interessata o perché è disgustata. Comunque il messaggio è questo, che con la zanzara, ascoltando la zanzara al volante, si rimorchia. Allora, dica a Furlan, visto che stava andando in fallimento con l'albergo, che con questa puttanata dell'esercito di Silvio forse sta sopravvivendo. È un fallito, informatevi, è un fallito e ha bisogno di queste troiate. Ciao ragazzi. Il capo dell'esercito di Silvio fallito, una cosa pazzesca. Roberto da Milano, Parenzo oggi è morto, eh. Roberto da Milano. Mi stupisce molto, ciao, tu non ciao. Mi senti? No, ti sento basso, ti sento assente. Segreteria telefonica 0246, no. Aspetta, stai zitto, 0246, almeno se non parli fammi parlare. 0246 52 40 10, 0246 52 40 10, e andiamo. Chi c'è allora? Roberto, dai. C'è sto, ma mi sembrate due mosci oggi, però. A me lo dici, io no, è quello che è moscio. È quello che è moscio. Ascolta, no. Sottassistente di Milano, faccio la notte. e noi ci lavoriamo con i trans, perciò noi li, siamo noi che li portiamo su piazzale. Ma chi? Scusa, aspetta che non sento, Roberto, non ho capito. Tu, i camionisti si lamentano perché ai piazzali li vengono lì a bussare i vetri, e noi li portiamo a lavorare lì, perciò che fa? Non lavoriamo noi. Ma chi? Chi? I trans, i trans. I trans dove li porti? Sul piazzale dei camionisti. Ah, tu porti... dopo si lamenta, poi senti, io c'ho la prova che Parenzo è un lecchino. Dunque, adesso ti racconto. Sì, però avvicina questo cavolo di cornetto, questo telefonino che hai, dai. Aspetta, aspetta. Dai, su. Aspetta. Abbiamo fatto una lotta col sindaco di Milano, lui... Vabbè, ho capito, allora... Allora? Era Tele Lombardia, sindaco di Milano di centrodestra, quello che lui canta adesso la canzoncina Albertini vieni giù che sei gay pure tu. Albertini. E lui da buon comunista difendeva il sindaco, difendeva il sindaco. Vabbè Roberto, dai, ma sono robe vecchie, Vecchie, somaro che non sei altro. Io difendevo le liberalizzazioni delle licenze, somaro che non sei altro. Somaro che sei tu, somaro che difendevi le lavoravi a Tele Lombardia, facevi le fotocopie. Adesso che magari va a lavorare a Rete 4 te stai da tanto aria. Sei un somaro, somaro. Ma ti perdono perché sei ignorante. Vabbè, questo oggi parla veramente col silenzio. Ma dove stai? In ospedale? Parli col silenziatore? Vuoi parlare bene? Stai alla radio? No, non è... posso, scusami, allora o mi regali un telefono nuovo. Ma ho capito, parla, non parli. Giorgio dalla provincia di Modena, si sente parlo, come... ma se urlo mi dicono dalla regia che distorco. Ma no, ma ho capito, ma parla però. Non stai parlando, Giorgio dalla provincia di Modena. Si sente piano piano, si sente una cosa piano piano. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Giorgio dalla provincia di Modena, dai. Come sta Cruciani? Sta bene? Bene, bene, dica. No, dico, ma oggi vi siete resi conto che siete Berlusconi numero uno? In che senso? Perché ha ribaltato tutto alla fine, perché? Ma che ha ribaltato tutto alla fine? Ragazzi, questo ha schedato i traditori, ok? Non ha fatto saltare, allora, non ha permesso che saltasse il governo, quindi Renzi è bollito. Quindi a questo punto lui è di nuovo il re d'Italia. Vabbè, se non esageriamo, di nuovo il re d'Italia, dai. No, no, Cruciani, lei deve essere... Cioè, lei sta ribaltando tutta l'analisi, cioè, lei, secondo no, lei... lei deve essere obiettivo, lei deve essere obiettivo. È il re d'Italia, Silvio Berlusconi è il re d'Italia, l'imperatore d'Italia, il numero uno, il Machiavelli, li fotte tutti e ce l'abbiamo ancora come cavolo dei nostri 50 anni. Pasquale da Napoli, grazie, Pasquale. Pronto, buonasera. Dimmi, Pasquale. Sono un camionista, all'estero, Inghilterra, Napoli. E allora? Londra, Napoli. Sì. E allora sono solo questo, che appena, diciamo, faccio l'Italia, dove mi fermo, sembrano le mosche sulla cacca. Cioè? Che non posso scendere dal camion a fare un po' d'acqua, che subito con i fari... Ma ancora con sta storia? Vengono i gay? I gay. Ma no. Dice, non ci credi. Ma dai, su, ma smettila, Pasquale, anche tu con sta storia. Veramente, succede solo in Italia, però appena passo il confine non si vedono più. Ma solo ho in Italia. Ma ho capito, che succede? Tutti fermi a fare la pipì e che succede? Ti puntano i fari di addosso e qualcuno è nascosto nei cespugli, ti fa prendere anche paura. Ma dai, Pasquale, ma è una buffonata per questa. Per vedere te come fai, non mi credi, Ma di che stiamo parlando? La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. L'epopea del sindaco di Salerno, nonché viceministro alle infrastrutture, Vincenzo De Luca. Tutto inizia, cari ascoltatori della Zanzara, tutto inizia alle Iene, che lo rincorrono per chiedergli: caro sindaco, quando è che si dimette? Perché lei ha il doppio incarico. Come sarà la massacrante settimana del doppio incaricato De Luca? È lunedì, siamo fuori dal Ministero dei Trasporti ed eccolo il viceministro che entra a lavorare. Infatti a Salerno il parcheggio della sua auto è vuoto. Martedì De Luca è sempre a Roma al Ministero e il parcheggio a Salerno è sempre vuoto. Così anche mercoledì De Luca è a Roma e a Salerno non ci sta. A un certo punto lo raggiungono in uno dei giorni della settimana alla processione di San Matteo e lui si incazza. E quella povera poltrona di sindaco, vuota, sola e senza un culo che la riscalda. Eh sì, De Luca si merita proprio il premio secondo culo per la seconda poltrona. Lo raggiungiamo a Salerno nel fine settimana. Oggi a Salerno è la festa del patrono della città, San Matteo. Sindaco, che bello rivederla a Salerno! Sì, sindaco. Non è una procedura. È bello. Sorriso, mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo. Mi adorano così. E ieri qui alla Zanzara si sfoga. Le iene non sono delle iene, ma dei ciucci pure cafoni. Con le iene io ho un accordo profondo, nel senso che si autodefiniscono iene, ed io concordo sulla loro natura animale. Ho solo un dubbio sulla specie, diciamo, perché mi pare sembrano più ciucci che iene, però sono andati perfino a disturbare una cerimonia religiosa, una processione. Beh, siamo arrivati a un punto tale di imbarbarimento e di cafoneria. La verità, se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. E a quelli del Fatto Quotidiano, sempre De Luca, che lo inseguono da mesi e mesi per chiedergli: a sindaco, ma quando te dimetti? C'hai due incarichi. Secondo me la domanda non è sbagliata, l'abbiamo fatta anche noi ieri qui alla Zanzara. Lui risponde: è gente sfaccendata. Perché gode tanto di questa ossessione, di questa sofferenza di quelli del Fatto per la questione del suo doppio incarico? Perché non ho capito perché soffrono. Gente sfaccendata, non ha niente a fare. Beh, insomma, siamo persone che dormono poco e lavorano molto, possiamo fare tutto. Pasquale da Napoli, ancora lui, che vuole ancora Pasquale, dai, su. Sì, ciao, no, ti volevo dire che se prendi la macchina e ti fai un giro, la percentuale più alta sta in Toscana. Sicuramente noi camionisti abbiamo cambiato il nome a Firenze. Ma ho capito, ma tu ci sei mai andato a questi... Come si chiama? Frocenze, come si chiama? Frocenze si chiama. Ma tu ci sei mai andato? No, andato no. Comunque per starci ci vanno, perché se no non ci sta dentro notti intere. Ma pigliano i quattrini? Ma senti, so solo che fuori al mercato di Milano, ortofrutticolo, quando sto fermo e ho finito di scaricare, passano con la macchina con 50 euro tra le dita, te lo fanno vedere. E che vogliono fare? Un po' di immaginazione non ce l'hai, secondo te cosa vogliono fare? Che ne so, loro dicono facciamo delle cosine. Vabbè. Mo tu, Filippo, sentiamo Filippo da Milano, grazie Pasquale di questa indicazione. Piaga sociale. Ma che piaga sociale? Filippo, allora? Ma ti devi liberare di quella zavorra arrugiata lì a Pastrozzo, liberati di quella zavorra arrugiata. Ma chi sarebbe? Tanto non fa niente, inutile che lo tieni lì, non lo vedi? Arrugginita, dici tu? Sì, in calabrese te l'ho detto, una zavorra arrugiata. Vabbè, dimmi quello che mi devi dire, dai Filippo, su. È quello che ti volevo, ieri sera, tornavo, io vado a scaricare a Verona che scarico il pane, ieri sera tornavo indietro, erano verso mezzanotte, un tipo mi ha affiancato con la macchina, perché usano una tecnica, questi simulatori, capito? Sì. Praticamente si affiancano con la macchina, si accendono la lucina, e magari sono nudi o in mutande. Ma dai, che si su, Filippo, su. Ma non è possibile questa cosa, dai. No, sono in giro tutte le sere, da domenica a sabato mattina io. Allora, Filippo, abbiamo capito in due giorni che esistono frotte di plotoni di omosessuali travestiti con le gonne, con le calze, eccetera, eccetera, che si aggirano per le autostrade italiane, qualcuno pure con 50 euro in bocca, a cercare la descarica con i camionisti. E dai, su. Da Brescia, sai dove mi ha mollato? Prima di Bergamo. Si è fatto 80 km presso a me. Ma perché ma perché ce l'hanno proprio con i camionisti? Perché pensano che non i camionisti... Non è che ce l'hanno, loro, ti spiego, Beppe, il nostro lavoro è stare in giro sempre sulle strade, poi io ho la fortuna, alla sera finisco alle 2, alle 3, vabbè, e torno a casa. E allora? Ma tanti, sono in giro tutto il mese, sono via dalla famiglia, capito? E allora? Niente, c'è pure qualche camionista che ci va, capisci? Ma ci va in cambio perché è un po' omosessuale o perché vuole i quattrini? Alla fine te la dico proprio libera. Sì. Ti fanno fare un pompino, per loro è sempre un pompino. E gliela faccio un uomo, un travestito, una donna. Se uno c'ha voglia, prende e va. E tanti lo fanno. Beh, questa spiegazione, Parenzo, mi sembra la più esaustiva, mi diciamo. Puoi spiegare? Ascolta un attimo. Prendi quelli che fanno la linea, quelli tornano a casa una volta al mese. Una volta al mese ho capito che ci sono alternative, ma quali sono? Mica sempre trovi la tipa che gli dà il 30 euro, il 50 euro. E ci sono delle volte che ti piglia l'ingrifo e ci vai anche con loro. E io so di tanti che ci vanno. No, volevo capire questo. Ma mandami a Pastrone, se me lo porto con me, lo libero una piazzola. Sì. Volevo capire questo. Lei, ad esempio, ha mai pensato di telefonare anche e portare il suo contributo preziosissimo anche nella trasmissione del signor Barisoni, ad esempio? Lei ha mai pensato di telefonare, di dare il suo contributo alla trasmissione Focus o Forum Economia? Economia? Ma io Beppe, vedi, sono sulla strada, capito? Le cose, se stai sulla strada le vedi. Se siete tutti in una poltrona come quello lì, non fa neanche partecipo, non lo vede che assente. E non verrà arruggiato. No, ma io non ho capito. Filippo, tu ha contributo comunque. Grazie, tu ascolti la trasmissione Forum Economia, questo volevo capire. No, Beppe. Ma che cazzo ne sai? Francamente. No, perché a quell'ora lì ancora non lavoro, capisci? Ad esempio, Minoli, no? Minoli. Tu lo conosci Minoli, Filippo? Lo conosci Minoli? Ascolti, sei quello che fa il programma su Focus Economia? No, la mattina. Ah, quello che no, fa. No, no, io dormo al mattino, di notte lavoro. Bene, quello che fa il programma prima di noi? Sì, lo sento parlare, quello che fa Focus Economia, sì, però non so chi sia, sinceramente. Ah, beh, certo. Vabbè, Filippo, grazie. E non si azzarda, capisci, non si azzarda neanche a chiamare il signor. Non lo chiama neanche Sebastiano. Ah, Beppe. Cioè, non è che osa chiamare Barisoni, di Sebastiano, ti devo dire una cosa. Ci sono i trans che fanno i bocchini, cioè non osa, capito? Non osa neanche. E invece da noi telefona. Io mi porrei, fossi in te, alle 20:43, la domanda del perché anche la nostra segreteria telefonica è zeppa di messaggi di quel tipo lì e non, ad esempio, di riflessioni alla Zagrebelsky. Io mi porrei questo problema del perché la maggior parte di questi avventori di questa trasmissione hanno il linguaggio che ha questo scarto di magazzino che ha chiamato poco fa. Ma come scarto di magazzino? No, Filippo! Scarto di magazzino. Ti ha chiamato lì. Scarto di magazzino. Ma è il minimo. Ma lascialo fottere. Ma non capisce un cazzo. È simpatico come un grappolo di emorroide di quello lì. Te lo dico io. Adesso si è svegliato, capito? Ho dovuto stuzzicare, si è svegliato, se no stava dormendo. Era il letargo, era. Hai capito? È così. Hai capito? Sveglia, capisci? Come si chiama questo scarto? Filippo, perché non chiami nella trasmissione del signor Salvatore Carruba, dovrebbe dire queste cose. Prova, vediamo cosa succede, vediamo. Ma che cazzo? Va bene, mi farò una cultura anche su quello, dai. Ciao Filippo, ciao. Ciao belli, complimenti. Ciao. Va bene, niente, ciao a te. Raffaello? Sì. Oh, eccoci qui, devo scatenare qualcuno contro Parenzo perché questa sera mamma. Uè, caro Cruciani, buonasera. Come stai? Cruciani. Come stai? Signor Raffaello Tonon. Buonasera a tutti, anche al compagno Parenzo. Signor Tonon, che hai riesumato pure Raffaello Tonon, hai riesumato. Ma pensi che Parenzo, Cruciani non ha fatto altro che seguire quello che ha fatto lei tanti anni fa, perché lei mi invitava nelle televisioni locali, quindi sì. Mi ha resumato, lei mi ha inventato, Parenzo, non si vergogni. Ecco, non ti vergognare, David, non ti vergognare. No, Parenzo, io è sempre così confuso, Parenzo, lei, una volta al figlio, una volta sul torpedone, una volta fa la pipì, una volta guarda il computer, è sempre così silenzioso. Io voglio capire qual è il contributo che ha dato, non dico Tonon, no, ad esempio. Ma guarda, io per esempio a Mediaset ho dato un bel contributo, perché vendendo pentole e materassi nel mio piccolo ho contribuito ai grandi cachet dei big. tanto per dire. Vabbè, adesso non esageriamo, signor Tononno, su. No, io vorrei, volevo dire, uno vende pubblicità, vende materiale. Però la domanda di questa sera, caro Tononno, è questa. Secondo tu la chiedi a uno che vende pentole e materassi, ma va benissimo, perché io già mi sono autodenunciato, ho già tagliato le palle a Parenzo, che l'avrebbe detto lui, e quindi no, ma Tononno, gli voglio anche bene, è sicuramente molto più raffinato di quello scarto di magazzino che ha chiamato poco fa. Però io voglio chiedere a Tononno una cosa. Allora, è vero o non è vero, secondo la sua grande esperienza sulla strada, bravo, sulla strada, che ci sono frotte di omosessuali che rincorrono i camionisti? Ma io adesso devo dire, ascoltando la vostra trasmissione anche prima, sti camionisti, che uno ha l'idea che il camionista sia corpulento, insomma un uomo massiccio, certo io non potrei guidare un pier, gobbo, esile, eccetera. Allora? Diventano tutte delle educande che hanno paura che questi facciano toc toc al vetro. Bravo, e Raffaello! Io non ho capito questo fatto, no? Uno ha questa idea, state sfatando il mito del macho camionista. Tutti timorosi di questi qua che bussano. Questi bussano, uno abbassa il vetro e gli dice: senti, vai all'inferno, e la chiusa lì. Bravo, Raffaello, ci sentiamo domani, devo chiudere. Ok, io verrò sempre, vorrei venire sempre a fare il terzo incomodo. Capito, Parenzo, ti avverto, Ti avverto, ci sentiamo domani 18:30. Io però le porgo l'altra guancia, perché io sono proprio una berlusconiana dura e pura, e lo sarò fino alla fine, e anche se ci prendete in giro non importa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cari camerati, Radio 24, la passione si sente.